Pensando al tema della meditazione di questa sera, mi faceva piacere insieme con voi meditare su un aspetto del comportamento di Gesù che secondo me ci può, come tutte le cose di Gesù, ci può insegnare, ci può aiutare a vivere un po' la sua stessa vita, no? Come siamo chiamati a fare nella nostra fede, no? Vivere la nostra vita, vivere la vita cristiana significa vivere la nostra vita inserita nella vita di Cristo e quindi dare la possibilità a Lui di vivere la sua vita dentro la nostra e quindi di continuare a fare del bene attraverso di noi. Attraverso evidentemente la nostra persona che è unica e irripetibile per lui, la nostra personalità che è assolutamente personale, come dice la stessa parola. Quindi non siamo tutti uguali, anzi al contrario, siamo tutti diversi, però allo stesso tempo siamo tutti fratelli e sorelle sue. Siamo tutti simili a lui e quindi gli assomigliamo, no? In quanto fratelli e sorelle. Lui è il primogenito tra molti fratelli. E quindi attraverso il cristiano Gesù vive la sua vita in mezzo agli uomini anche oggi, la vive nei nostri luoghi di lavoro, nelle strade delle nostre città, nelle nostre case, nei vari luoghi delle nostre case, no? Nel soggiorno della nostra casa, sul tavolo da pranzo della nostra famiglia e così via, no? Nei luoghi della società, nei crocicchi delle strade. Allora, io da tempo desideravo mettere l'attenzione e non è che vi posso offrire come dire, una meditazione conclusa, ma la cominciamo insieme. Quei momenti in cui Gesù loda le persone che incontra. Gesù riempie appunto di complimenti le persone che incontra. È vero, ci sono anche altre occasioni nel Vangelo in cui rimprovera, dice guai a voi, ecco. Però ci sono molti momenti in cui ci sono momenti in cui corregge, no? Su cui abbiamo fatto anche la meditazione tempo fa, e ci sono momenti in cui loda, e in effetti io stavo riflettendo sui momenti che ricordiamo, noi forse siamo molte tra voi sono lettrici del Vangelo, e siamo lettori del Vangelo anche quotidiano perché frequentiamo la messa o perché lo leggiamo per conto nostro o comunque frequente, e però anche chi lo legge ogni tanto o semplicemente ne ha sentito parlare è facile che ricordi questi episodi, no? A parte che come premessa mi veniva in mente non Gesù ma lo Spirito Santo, che comunque è lo Spirito di Dio, è il suo Spirito, e attraverso l'angelo e attraverso Elisabetta, all'inizio della storia terrena di Gesù, quando lui ancora non è concepito nel seno di Maria, e poi quando è appena concepito nel seno di Maria, l'angelo, prima l'angelo e poi Elisabetta riempiono di lodi, di complimenti, di cose carine Maria, no? Pensate, vi ricordate quello? Noi lo ripetiamo nell'Ave Maria. L'Ave Maria è una specie di somma di queste lodi, no? Di questi complimenti dell'angelo di Elisabetta, e poi uniamo altre cose che noi nella Chiesa diciamo a lei, no? L'angelo, pensate che l'angelo, dopo averla salutata con quel saluto, adesso è tutto rallegrati, no? Perché il saluto greco ha quel significato, comunque richiama il saluto e anche abituale, no? Nell'ebraico, no? Rallegrati Maria, no? Rallegrati piena di grazia, rallegrati, no? Sii contenta, Sei piena di grazia, il Signore è con te. Pensate che lei addirittura a questo saluto si rimane turbata, cioè è così forte il complimento, così forte che lei l'ha sentito dire solo di Gerusalemme, solo, cioè nell'Antico Testamento, solo ecco, di persone molto importanti nel piano di Dio, per cui si domanda che senso ha quel saluto. Però il primo approccio di Dio Spirito Santo con Maria è un complimento, no? È una lode. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Che è anche una lode di rassicurazione, guarda che sei proprio piena di grazia, cioè che Dio è con te, no? Che abita dentro di te. E ancora dopo hai trovato grazia presso Dio. Quindi questa lode è perché tu stia sicura, perché tu non abbia a temere. Quindi in qualche modo possiamo dire che Gesù, prima ancora di venire al mondo, anzi per preparare il terreno della sua nascita, riempie di complimenti veri, no? Non sono adulazione, no? Non sono per captare la benevolenza in modo così un po' fasullo. Sono veri. E Maria e anche sono complimenti nei confronti del figlio, nello Spirito Santo dice: guarda che tuo figlio sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e Dio gli darà il trono di Davide suo padre, il suo regno non avrà fine, cioè che per una madre sono anche in fondo complimenti per lei, no? E subito dopo va da Elisabetta. E come sappiamo, seguendo quell'accenno dell'angelo, ed Elisabetta, piena di Spirito Santo, le fa altre lodi, no? Benedetta tu fra le donne, cioè tra tutte le donne, sii tu, no? La benedetta, benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del Signore venga da me? Allora voi direte, è beata colei che ha creduto. Voi direte, certo, in quel caso la lode è vera, è meritata, no? E cosa faccio io quando... è ovvio che anche noi quando... Non sto incoraggiando né me né voi a dire una cosa falsa, a dire una cosa appunto che può suonare come adulazione, non sia mai, no? Ma quando invece noi... sappiamo di una cosa bella, no? Di una persona, una cosa bella che fa parte di lei, di una cosa bella che ha fatto, non è che sempre dobbiamo lodarla, però non dobbiamo avere timore a manifestarla nel modo opportuno quando risulti positiva e non venga così equivocata, no? Come se noi volessimo appunto chissà quale scopo per noi, no? Invece dobbiamo lasciare che il cuore esprima il proprio sentimento di verità, no? La verità vi farà liberi, dice Gesù, no? E allora la verità di un cuore che ama a volte si esprime dicendo che ama, a volte si esprime dicendo quanto è bella, quanto è cara la persona che amiamo, insomma, quanto ci ruba il cuore, quella sua caratteristica, quella sua qualità, quella sua... E in effetti Gesù fa così molto spesso, molto, forse più spesso di quello che noi intuitivamente possiamo pensare, no? Pensate, quando, adesso a me viene in mente, all'inizio proprio del Vangelo di Giovanni si vede quando dice a Pietro: tu sei il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa. Vabbè, lì non si vede tanto, no? Altre volte: tu sei Pietro, su questa pietra, in altri Vangeli, no? Fonderò la mia chiesa. Cioè, tu sei fondamento, forse gli sta dicendo, penso, perché con questo linguaggio simbolico che in quella cultura era molto frequente e forse più frequente che tra noi, stai dicendo tu sei pietra, cioè tu sei solido, sei sicuro, no? Perché in quella parabola Gesù diceva la casa è sicura quando si costruisce sulla pietra, no? Invece quando si costruisce sulla sabbia arriva l'alluvione e si perde. E quindi gli sta facendo un complimento importante che non esclude che poi dopo lo riprende quando sbaglia, quando, no? Quando lo rinnega, quando è fa troppo lo sbruffone, no? Però quando lo deve lodare lo loda e anche una lode che incoraggia Pietro ad andare avanti, no? Lui si sente peccatore, dice allontanati da me che sono un peccatore, gli dice dopo la pesca miracolosa, invece Gesù lo incoraggia con una profezia che è anche una lode, cioè una sicurezza sulla sua vocazione, tu sarai pescatore di uomini. Quindi ovvio che noi non possiamo al posto di Gesù fare i profeti, perché tranne che il Signore ci dia una luce, cioè tu sarai, cioè. Però spesso possiamo dare da un punto di vista umano una speranza, una lode che aiuta le persone ad avere coraggio, ad avere fiducia in se stessi e quindi nelle doti che il Signore ha dato a loro, il che significa avere fiducia in Dio, no? Spesso avere fiducia in se stessi vuol dire avere fiducia in Dio che ci ha creati, che ci ha dato questi doni, questi talenti che Lui vuole che noi mettiamo a frutto, per gli altri, per il bene della società, per il bene della Chiesa. Quindi come incoraggia a lanciarsi, ecco, una lode, no? Una lode incoraggia ad intraprendere la strada giusta. Anche in famiglia questo accade moltissime volte, sicuramente voi lo fate tante volte, quindi io vi incoraggio oggi, lodandovi per tutte le lodi che fate a marito e figli, perché queste lodi molto spesso sono, se sono vere, se sono fondate, se sono appunto non campate per aria, incoraggiano le persone che voi amate ad intraprendere una strada, a lanciarsi nel mondo, a lanciarsi nel lavoro, a lanciarsi a fare il bene. Perché tutti, chi più chi meno, tutti gli esseri umani, alcuni proprio sembra proprio che non abbiano bisogno, che non abbiano neanche la più piccola insicurezza, ma poi magari invece quella che ostentano esteriormente è proprio un tentativo di coprire quella che invece dentro è un'insicurezza, per cui tutti abbiamo bisogno di essere rassicurati dell'amore che Dio ha per noi, della forza che il Signore ci ha dato con i suoi doni, della vocazione che il Signore ci dà con il battesimo, del bene che possiamo fare con i nostri talenti, no? Tutti quanti abbiamo bisogno di questo e Gesù lo fa continuamente. Ho detto Pietro, poi mi viene in mente Natanaele, subito dopo, quando Filippo, che è uno dei primi, no, che l'ha seguito tra i discepoli di Giovanni, che Filippo trova Natanaele, evidentemente amico suo, compagno o di lavoro o di città, e dice: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, ecco Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Era di Cana di Galilea, un paese vicino, quindi ci doveva essere una certa rivalità, però è anche una citazione dotta, cioè i profeti non hanno mai parlato di questa Nazareth, come se. Com'è possibile che il Messia venga da quel posto, no? E Filippo gli rispose: vieni e vedi. Nella bellissima frase che ripete quella che Gesù stesso ha detto all'inizio: venite, vedete, no, dove abito, che è un atteggiamento molto, molto concreto, molto valido, no? Perché noi abbiamo bisogno di vedere, di toccare con mano. Di fronte alle teorie, ai discorsi, agli studi fatti anche se volete possono avere una certa validità, però interessa a Gesù che noi guardiamo le cose. E qui Natanaele risponde bene a questo invito e va con lui. Quando sta per incontrarlo, quando Gesù lo vede, e Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. È un complimento molto grande, non voglio dire che vuol dire che gli altri fossero così falsi, non so cosa Gesù cosa vuol dire, ma però senz'altro è un bellissimo complimento, perché chi di noi appunto è in grado di dire io sono così, no? Perché qualche cosa, qualche mezza parola, qualche difficoltà di esprimerci come vorremmo, di quello che pensiamo, no? Cioè, siamo diversi evidentemente, ma invece è bellissimo. E infatti quando ci fanno un complimento, forse noi facciamo anche fatica a riceverlo, perché per sé spesso e volentieri non ci vediamo così come siamo. Ecco perché il complimento è utile, la lode vera di una persona che ci vuole bene è molto utile, perché è come uno specchio nel quale noi ci riflettiamo, no? Ah, sono così, ma io pensavo, no? Avevo una cattiva opinione di me, no? Non pensavo, e a volte facciamo anche fatica a credere, forse perché appunto, il peccato originale che ciascuno di noi ha dentro, quindi questa colpa dei progenitori che ci ha portati fuori dal presidio terrestre, che ci fa sentire un po' dentro questa tendenza, la tentazione, no? Verso il peccato, verso il male. Ci dà un'insicurezza di fondo, no? Che in parte è vera, perché Gesù dice: ma se voi che siete cattivi, no? Date ai vostri figli che vi chiedono un pane, gli date avere un pane e non una serpe, quanto più il Padre vostro che dice che è buono darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Quindi in parte abbiamo ragione, però allo stesso tempo siamo creature di Dio, siamo figli di Dio, siamo stati da Lui perdonati, da Lui santificati nel battesimo, siamo stati continuamente nutriti dal corpo di Cristo nell'Eucaristia. In noi c'è l'uomo nuovo che ha creato lo Spirito Santo, no? E Gesù risorto ci fa partecipare della sua vita, e quindi siamo una nuova creatura, e c'è tanto bene dentro di noi che abbiamo bisogno che sia messo in evidenza, e a volte lo mette in evidenza un amico, un'amica, una moglie, una madre, una sorella. E che ci dice un marito, un fratello, un amico, un padre che ci dice: tu sei in gamba, tu ce la puoi fare. E Gesù fa così: prima di chiamare Pietro dice tu sei Pietra, prima di chiamare Natanael dice tu sei un israelita in cui non c'è falsità. E addirittura forse sa anche trasformare i difetti in una sorta di compiacenza, quando dice soprannomina Giovanni e Giacomo, i figli di Zebedeo, li soprannomina i figli del tuono, no? A me sembra di vedere in questo, cioè, complimento, certo, il fatto che loro erano focosi, chiedono a Gesù: scusami, quel villaggio non ti vuole ricevere, vuoi che chiediamo fuoco dal cielo che bruci tutto quel villaggio? E Gesù li rimprovera, no? Però dello stesso tempo io intravedo in quella soprannome che Gesù gli dà una sorta di complimento, perché in fondo gli piaceva questo loro vigore, e forse anche un complimento attraverso il quale li aiuta un po' a correggersi, no? Li prende anche un po' in giro, perché loro riescano a moderare un po' questo loro carattere focoso, Come sapete bene, poi tutte queste capacità di Gesù di lodare, di complimentarsi, non gli impediscono al momento opportuno di correggere tutti questi discepoli, appunto rimproverarli, dice, ma cosa state dicendo? Non sapete quello che dite, no? Quando i due vanno a chiedergli di poter avere i posti d'onore nel regno di Dio, no? Non sapete quello che domandate, no? Però poi gli dà allo stesso tempo la profezia buona, però bere il mio calice sì, sarete capaci, no? Lo potete, sì, lo possiamo, sì, effettivamente lo farete, no? Che poi significa forse il martirio che a cui parteciperanno loro, chiedono una cosa d'onore e Gesù gli fa capire che poi avranno il martirio, che è il modo di partecipare al suo regno. E così, questo pensando ai suoi discepoli più vicini, e pensate ai personaggi che incontra, no? Di cui con molta facilità Gesù loda, per esempio, la fede, no? Tutte le persone che, per esempio, quel centurione di cui gli parlano anche bene, guarda che ci ha aiutato a costruire la sinagoga. E aveva il servo che stava male, che soffriva molto, e gli dice: no, ma no, non stare a venire tu, cioè anch'io ho i miei uomini, gli dico va, gli va, vieni, gli viene, quindi ho uomini che io comando, e quindi, come dire, anche tu puoi anche da lontano guarire, no? E Gesù dice di questo, che non era del popolo di Israele, che era un romano, no? Quindi un pagano per loro, anzi, ecco, erano considerati persone proprio lontane da Dio. Invece non ho trovato una fede così grande in Israele, no? Quindi loda questo personaggio, appunto, di un popolo per loro pagano, e loda la fede, no? Per esempio, mi vengono in mente subito molte donne, no? Le donne che seguono Gesù, le donne che lo incontrano, per esempio quella donna che soffriva di perdite di sangue da tanto tempo, no? Che sente l'impulso di andare da dietro per non farsi vedere, perché poi lei era considerata impura proprio con tutto questo sangue che perdeva. Vuole fare in segreto, no? Sa che, ecco, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata, e difatti subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita, e subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? Non è che la cerca per condannarla, non la cerca per rimproverarla, lei un po' lo teme, infatti tutta impaurita e tremante si gettò davanti, gli disse la verità, ed egli disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Cioè addirittura Gesù vuole lodare la sua fede davanti a tutti, perché poteva perfettamente lasciare che la cosa andasse così nel silenzio, non andasse avanti nel segreto. Invece vuole che questa donna venga vista, che venga conosciuto questo episodio, per poterla lodare davanti a tutti e quindi anche reinserirla nel popolo, perché lei, sì, forse col tempo, cioè, so, i medici avrebbero verificato la sua guarigione, sarebbe con fatica rientrata nella società, ma invece lui subito la riabilita, non solo la fa rientrare nella società, ma loda la sua fede. E questo succede anche, pensate alle famose, sono tante le unzioni, no? Cioè le donne che manifestano il proprio amore per Gesù anche attraverso il profumo che spargono su di lui, no? Sul suo corpo. E sono tanti racconti, alcuni forse sono la stessa cosa detta con parole diverse, però di fatto quell'unzione di Betania, no? In cui è Maria di Betania che rompe il vasetto di nardo preziosissimo e sparge questo profumo sul corpo di Gesù, in altri Vangeli non si dice il nome, ma si racconta una lode che Gesù fa nei suoi confronti. Vi ricordate, i discepoli criticano questa donna, ma perché non ha venduto questo profumo per darlo ai poveri? E Gesù li interrompe e dite: ma perché la infastidite? Lei ha fatto un'opera buona verso di me. E anche aggiunge in alcuni Vangeli: lo ha fatto pensando alla mia sepoltura. E dovunque, poi fa la profezia, quindi loda la donna, hai fatto un'opera buona verso me, e poi fa la profezia: dovunque sarà predicato questo Vangelo, si dirà, ecco, la cosa buona che lei ha fatto per me, no? Forse l'unico passo del Vangelo in cui c'è questa profezia di Gesù sul fatto che quel gesto di quella donna non solo è lodabile adesso, no? Io lo lodo adesso, ma verrà lodato per tutta la storia degli uomini, no? Dovunque sarà predicato il Vangelo. Quindi pensate, no? Quel piccolo gesto che è messo in evidenza, il che significa che tanti nostri piccoli gesti nei confronti di Gesù, nei confronti delle persone che sono Gesù, no? Perché lì c'è, qualunque cosa fate a uno di questi fratelli miei più piccoli l'avete fatto a me, se date da mangiare, da bere, no? Da vestire, andate a trovare quando sono in carcere, andate a trovare quando sono malati, cioè, e poi si può ampliare, no, tutto questo quando hanno bisogno. Li avete ascoltati, perché avevano bisogno di essere ascoltati, erano soli, li avete accompagnati, cioè si possono amplificare queste opere di misericordia di Gesù. E allora quel gesto che voi fate, io lo lodo, hai fatto un'opera buona verso di me. Quindi dobbiamo anche sentirci lodare da Gesù tante volte lungo la vita, anche se magari quel gesto è fatto nella solitudine, è fatto nel nascondimento, se ne accorge solo lui e forse la persona a cui ci rivolgiamo. Ci dobbiamo sentire lodare e dobbiamo valorizzare quel gesto anche se è nascosto, perché verrà lodato per tutta l'eternità. E così come anche quella, sempre è una sorta di unzione, anche se probabilmente è un episodio diverso, quella di quella donna che è considerata la peccatrice di quella città, che è entrata da Gesù nella casa di Simone il fariseo e che le lava i piedi con le sue lacrime, le asciuga con i suoi capelli, li bacia e li cosparge di profumo. E lì si vede anche come Gesù riesce, perché nei confronti di Simone che critica questa donna dentro di sé e critica lui, che dice non è un profeta, perché sennò capirebbe che genere di donna è questa, Gesù riesce a fare una lode per aiutare a correggere, perché si converta Simone, no? Per cui dici, fa un indovinello, ma senti, ma se uno ha un creditore, ha due debitori, uno gli deve 500 denari, l'altro 50, condona tutto, chi gli vuole più bene? E lui dice, beh, penso, suppongo, quello a cui doveva di più, no? Chi lo amerà di più? Hai giudicato bene, cioè, come dire, Gesù trova il modo di lodare anche la persona che poi deve in qualche modo correggere, no? Dico, ma stai sbagliando nel tuo approccio, nel tuo giudizio interiore verso questa donna. Quindi la lode vera, hai giudicato bene, quindi sei intelligente, se ce la fai, no? Ce la puoi fare ad arrivare a quello che adesso ti dirò. Così anche con la samaritana, quando dice, hai detto bene che non hai marito, perché quello con cui sei adesso non è tuo marito, ne hai avuti altri cinque. In questo hai detto il vero, quindi riesci a trovare trovare il modo di lodarla. E quindi anche questo, a parte che questa domanda di allora sei un profeta, cioè, le apre il cuore con una lode con la quale non è un... lo capiamo bene che nel cuore di Gesù è tutto molto limpido, molto bello, molto vero, cioè le vuole veramente bene, non è... Uno non è che non la prende in giro, no? Anche con questo Simone, no? Dice, quindi, cioè, crede che lui possa cambiare vita perché gli dice: vedi, questa donna, sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Poi, quindi la lode, e poi dopo la verità, la lode di verità, hai detto bene, hai giudicato bene, sei capace di giudicare bene, quindi adesso sarai capace di giudicare bene quello che ti sto per dire. Tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei mi ha bagnato con le sue lacrime, tu non hai... Non li hai asciugati, lei li ha asciugati con i suoi capelli, tu non mi hai dato un bacio, lei continua a baciare i miei piedi, tu non mi hai unto con olio il capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Poi dice a lei, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Cioè, la loda perché è una donna che sa amare molto. E anche lei fa capire che questo amore copre i peccati, brucia i peccati, perché se il peccato è mancanza d'amore, se il peccato no? O è mancanza di fede, invece in questo atteggiamento suo c'è pieno amore per Gesù e piena fede nel fatto che lui poteva, che i peccati in qualche modo erano una ferita a lui, ma con l'amore lei cura questa ferita, infatti le dice: sono perdonati i tuoi peccati. E quindi, ecco, questa è, io qui mi interrompo, no, nella meditazione, perché si potrebbe andare avanti, ma potete andare avanti anche voi, no? Ci sono altri episodi, no? La Cananea, insomma, altri, no? Altri personaggi con cui, e altri poi se li trovate voi me li raccontate, e così arricchiamo questo aneddotario della capacità di Gesù di lodare, di dire bene, no? Che poi San Paolo dice: dite bene, no? Non maledite, ma benedite, no? Dite bene. E così noi in primo luogo impariamo da Gesù a dire bene, e anche a lodare la persona direttamente, no? A farle questo gesto di affetto che è dire bene di lei davanti a lei, no? Dice, ma qualcuno si può preoccupare, ma poi non si insuperbisce, non si... Ma Gesù non pensa a questo problema, quindi sarà un problema suo, cioè l'importante è che invece è la verità, no? Cioè la verità aiuta e l'amore poi aiuta sempre tanto, l'amore vero, no? Per cui chiediamo a Maria che è stata così lodata dall'angelo e poi anche beato il ventre che... ti ha portato, beato il seno che ti ha dato anche lungo la vita pubblica di Gesù e poi sempre dai santi e dagli angeli che ci aiuti a fare nostro questo comportamento di Gesù, a vivere in questo modo anche noi la sua stessa vita.